Loro in Berlino e lo fosco con l'amico Graffio. Da te stamparono, dice cosa sono tu, i carotti e l'amore. Signorini, sentiti buono, il cecuzzino politico continuare. E soprattutto baciate la cresta. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. Sotto Rebellino ora in collaborazione con Nova Esano mia Graffio Lovagnone. Anche puro lo fosco con noi nazione. Sopra sta batticica la missione. Per parla e sogna sopra tanti cosi. Due tema principali sono tutti carosi. La donna mediterranea abbronzata e formosa. La nostra la tira ma va di la stilosa. La donna che apprezzo è di al naturale. Senza puttana di fanno solo male. A essere buona quando si osa la manina. Così si vedi quanto va la signorina. Potrei cantare ancora Bimbo di ore. Ma Monelo graffia di ricce di l'amore. E ricorda che quando vedi una bagnoli, la bellezza che conta è di l'acqua e sapone. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. Ed ecco Graffio troppo ribellino, culo fusca la console. E gli è sicato lo casino. Cacci zicamo, go parliamo mai finimo. E siamo tutti una famiglia, baciami lo primitivo. Dalle terre dello Salento nasci quello miero. Nu 14 gradi metti pace, puro con l'uomo nero. E siamo tutti una razza e tutti amici uniti tra di noi come una cucuzza e l'italice. E ci zicamo no perdimo, colori come una rosa. Ci zica a cantare e pina bella carosa. Lo sapino si ferma lo bagno. Ci li rime lo sound, partono direttamente di lugore. E lo sape che non ci brusco. Ci pesce una carosa culuste fullo fusco. Saccio che c'è sicuro passione e c'ha lo cuore di sto bagnone. Faccio solo per l'amore. E i valori morali non ci cadono. Di pesce spesso li vecchietti brazzati che si basano. Per l'anziani l'amore conta molto sai. Scatta una foto di modo che non ti scendi mai. Da noi ne improvvisiamo cantanti e li zitti di nita discono in c'è pochi istanti di proprio festa cinca non ci credi. Noi è l'amore che tiene all'udici tu la fedi. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. Graffio e ribellino ma solo fusco, senti c'è casino. Ca quando cantiamo cercamo solo con e divertimo. E quando assimo a mezzo la piazza con sto calore. Si cava delle carose e pensa c'è dell'amore. Ed è una cosa fondamentale non pensare che è banale. Quando stai con la ziga diventa tutto più speciale. E ci stai duro con la mela facci suono per scusare. Giorno e notte sempre io da star pensare. Ma le femmine di oggi pensano sempre a puttanati. Non vadono allo zito, volano solamente contentati. Ti rendono nervoso, non li puoi sopportare. Essere fortunato, Gino picca puoi parlare. Ma mo' basta, è meglio così giù. Ringrazio Raffaello ribellino, antisumo, c'entra giù. Ormai nessuno li ferma più, penso che lo sai. Tenemo fatti di contare che non la stacciamo mai. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore. I due terror rap insieme a Graffio a far modello su sto ritmo pazzo di intrecciare sempre più parole. Che il sesso non esiste senza amore, sentimo tra l'aria come se ne vola stardore.